ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, partiremo con il tema della cosiddetta cabina di regia, o meglio come verrà organizzata, alcuni la chiamano task force, altri cabina di regia, come verrà organizzata la task force per le spese del recovery fund, ma anche se a questo punto sì avvicina, come oggi scritto su Sole 24 Ore, poi è arrivata una smentita parziale, si avvicina anche un utilizzo del MES, perché la nuova richiesta di extra deficit è di 25 miliardi e quindi in attesa poi di attivare, poi presentando a metà ottobre, un po' dopo metà ottobre, alla Commissione Europea il piano di spesa sul Recovery Fund, oggi su Sole 24 Ore un articolo a firma di Gianni Trovati ipotizza appunto il ricorso al MES. È arrivato poi una nota del Ministero Economia e Finanze, del MEF, e dice: nessun problema di cassa per il bilancio dello Stato, i conti sono in ordine, pensiamo a utilizzare i fondi del recovery. Questa dichiarazione del vice ministro Castelli, così come anche il capo delegazione dei 5 Stelle al Parlamento Europeo, che dice: la nostra posizione sul MES non è cambiata. Faccio notare però che ieri ai nostri microfoni il ministro Speranza aveva detto che per la sanità sono necessari almeno 20 miliardi di finanziamento, aggiungendo va bene anche il MES o qualunque altro strumento. E attenzione, perché come ha spiegato bene Adriana Ceretelli, è un po' difficile immaginare di utilizzare il recovery fund per le spese sanitarie, dirette o indirette, perché per quello l'Europa ha già approvato, su richiesta anche italiana, il Covid MES, cioè quella parte del MES che è utilizzabile per le spese sanitarie dirette o indirette e che, a detta di tutti, ha anche meno condizionalità del tanto giustamente acclamato Recovery Fund. Lo dico perché la mia impressione è sempre più netta che qui ci si batta sulle parole senza entrare nei contenuti e senza guardare poi il dato di fatto. Cioè, se qualcuno riesce a dimostrarmi che l'utilizzo del recovery è meno condizionato e quindi ha meno condizionalità rispetto al MES, accetto di essere smentito. In realtà il MES non piace perché c'è una posizione ideologica su questo da sempre, mentre il recovery, siccome faceva parte di una battaglia per un'Europa più solidale, non viene criticato, fermo restando che le condizionalità non sono di per se stesse una cosa brutta e cattiva, perché quando tu ottieni dei soldi in prestito è chiaro che ti viene chiesto come li vai a utilizzare questi soldi, queste poi sono le condizionalità e di questo parleremo. Per quello che riguarda invece altri due temi, uno è, diciamo così, si celebra una parola forse impropria, un anno di Boris Johnson a Downing Street, un anno in cui lui era arrivato in maniera trionfale, ricorderete, scalzando Theresa May e poi andando diciamo ad accelerare sulla Brexit e concludendo la parte diciamo britannica della Brexit, e nel suo discorso di insediamento promise infatti di far uscire Londra dall'Unione Europea entro il 31 ottobre di quest'anno, chiaramente. Ora, nel frattempo è successo di tutto, perché non solo Boris Johnson ha gestito malissimo l'epidemia da Covid, poi è rimasto lui stesso vittima e anche ricoverato per il Covid, e la Gran Bretagna ha dei dati obiettivamente che si commentano da soli sul numero di decessi e numero di contagi, con un lockdown che è partito tardi e male, e appunto lui è stato uno dei primi, chiamiamoli così, negazionisti della pericolosità del Covid. Ma soprattutto adesso c'è una nuova rogna, un nuovo problema per la Gran Bretagna, e cioè si sono completamente fermati e sono allo stallo i tentativi di arrivare a un accordo con l'Unione Europea dopo le dichiarazioni anche di ieri, tant'è che anche il capo negoziatore europeo Michel Barnier ha detto l'accordo con Londra resta poco probabile al momento, un accordo per luglio è impossibile, lo ammette anche la Gran Bretagna. E perché lo dico? Perché la Gran Bretagna in questo momento è in una posizione molto delicata, non è dentro, è uscita dall'Europa, non è mai stata dentro l'euro, quindi non può neanche immaginare, non potete neanche immaginare il piano di aiuti che l'Europa ha varato, il Recovery Fund. E allo stesso tempo c'è una difficoltà nell'asse atlantico con gli Stati Uniti, perché non è un mistero che Donald Trump in questo momento abbia altri problemi, anche lui sotto accusa per la gestione disastrosa del Covid e dell'epidemia negli Stati Uniti, con sotto nei sondaggi con Biden e alle elezioni. Quindi il rischio di isolamento della Gran Bretagna è ancora più alto e sarebbe anche abbastanza pesante se si arrivasse a una Brexit senza accordo su vari elementi, per esempio sul patto di non concorrenza sleale, gli accordi sulla pesca. Comunque ne parleremo. E poi andremo sulle prospettive da un lato delle borse, dal lato dell'economia, perché molti ci hanno scritto: insomma, com'è possibile che le borse continuino a essere così in salita nonostante le previsioni sull'economia? Abbiamo spiegato in parte che è dovuto anche ai tassi a zero e alla ricerca di qualche rendimento in una forte massa di liquidità, ma ne parleremo con chi ogni tanto chiamiamo, non solo con l'astrologa ma in generale, a ragionare sull'andamento dei titoli quotati. Non solo, mi riferisco a Giovanni Tamburi, che ha scritto un articolo per il Sole 24 Ore che così ci ha incuriosito, perché dice: attenzione, vengono sconfessate le Cassandre, i mercati invece stanno reagendo con ottimismo a quelle che sono state le iniziative prese in primo luogo dalla Banca Centrale Europea, ma non solo, e a questo punto anche dai paesi europei. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque, per quello che riguarda, parlavamo di contagi, oggi c'è un nuovo record ai medi contagiati a livello mondiale, anche se continuo a chiedere di unire a questi dati sui contagi, anche per quello che riguarda l'Italia, i dati clinici su ricoveri e tipologia dei ricoveri. Comunque 282.000 nuovi contagi è il dato più alto da quando è esplosa la pandemia Covid, mentre le tensioni restano alte, se ne è occupato anche Musumeci, nessun luogo lontano, tra Stati Uniti e Cina. La Cina, come ritorsione, ha ordinato la chiusura del consolato americano di Chengdu, e la borsa di Shanghai questa mattina ha chiuso con un meno 3,86%, un calo pesante, anche perché insomma, anche Hong Kong ha fatto un meno 2,20 proprio sulle tensioni tra Stati Uniti e Cina. E tra l'altro, visto che parliamo di borsa, segnalo che oggi sono deboli tutti i mercati: meno 1,70 Milano, meno 1,5 Parigi, meno 1,90 Francoforte, meno 1,20 Londra, Dow Jones meno 0,30%. Per quello che riguarda Piazza Affari, Nexi perde 5,92, Pirelli 3,90 come Diasorin e Unipol, Ferrari meno 3, Atlantia meno 2,60 come Buzzi Unicem, il 2,5 lo perde Steam Microelectronics, il 2,30 ricordati e Interpump, il 2,20 Banca Generali, il 2% il caro di Enel, Exor ed Era. Di positivo non c'è quasi nulla, diciamo Saipem è invariata, Telecom meno 0,13. Andiamo invece ai dati europei, perché l'indice PMI, quello è il Purchasing Manager Index, è l'indice dei responsabili, dei direttori d'acquisto, e quindi ti dà, è un indice anticipatore sull'andamento dell'attività economica. Nel settore servizi manifatturiero è cresciuto bene, devo dire, nell'area euro, è passato da 48,5 punti a 54,8 punti. Allora, è molto importante questo, perché da sempre... quando lo spartiacque dei 50 punti è lo spartiacque tra attese di un rallentamento economico, se non recessione, sotto i 50 punti e attese di un'espansione economica sopra i 50 punti. Ora, il fatto che a luglio, a giugno era già risalito a 48,5 punti, il fatto che a luglio sia salito a 54,8 punti significa il livello più alto dal giugno del 2018, è volato soprattutto in Germania, addirittura dall'agosto, il livello più alto dall'agosto del 2018 è andato dai 47 punti di giugno ai 55,5 punti di luglio, e speriamo, perché appunto essendo un indicatore anticipatore potrebbe, uso condizionale perché in questo periodo insomma, ma potrebbe essere una buona notizia che ed essere confermato quella che è un'indicazione che arriva dai responsabili acquisti, cioè che vedono un aumento e quindi anche un'espansione economica. Staremo a vedere poi dai dati, però in questo periodo è meglio prendere qualunque notizia buona arrivi, e questa lo è sicuramente. Ricordo che era piombato ampiamente sotto i 50 punti chiaramente ad aprile e a marzo, ed era risalito a 48 a giugno. Devo dire che oggi anche l'Istat segnala come la fiducia dei consumatori sia leggermente calata a luglio, ma sia salita invece la fiducia delle imprese. Quella dei consumatori scende da 100,7 punti a 100 punti, e quella delle imprese sale invece per il secondo mese consecutivo da 66,2 a 76,7 punti. L'export italiano nei paesi extra UE ha fatto più 15%, quindi conferma la ripresa avvenuta a maggio. Però attenzione, è un più 15% su maggio, se facciamo giugno su giugno 2019 resta ancora un segno meno e a due cifre, meno 15,6%. Qui sarà importante, questo è il dato di giugno, vedere poi luglio soprattutto. Giugno è stato il primo mese senza lockdown, se ricorderete, completo. Dico senza lockdown perché dal 3 giugno si poteva viaggiare, si è ripreso a viaggiare anche tra le regioni, quindi di massimo movimento. Le esportazioni extra dell'Unione Europea però avevano fatto meno 44% ad aprile rispetto a un anno prima, ad aprile 2019, meno 31% a maggio, adesso hanno fatto meno 15% a giugno rispetto a giugno del 2019. Se dovesse essere mantenuta questa progressione, potremmo anche immaginare un dato di luglio rispetto a un anno fa quasi in linea con il luglio dell'anno scorso. E oggi ci sono un paio di rapporti che poi commenteremo, quello della Consob, dice ci sono rischi dal Covid per un'economia fortemente a ribasso, e il Centro Studi Confindustria che dice il PIL è in risalita ma la domanda resta bassa, perché sostiene il terzo trimestre farà registrare una variazione positiva del PIL italiano, però la risalita è stata avviata a fatica a maggio e giugno. Tuttavia è stata parziale, e il freno post lockdown è rappresentato ancora da una domanda interna che resta bassa. Le domande al fondo di garanzia sono arrivate a 890.000, di cui, come sempre, la stragrande maggioranza 765.000 per i finanziamenti fino a 30.000 euro, per un totale in questo caso di 15 miliardi di euro, mentre complessivamente tutti i finanziamenti richiesti valgono 58 miliardi di euro. Segnalo anche che c'è una bozza del protocollo sulla sicurezza nella pubblica amministrazione su cui hanno già raggiunto un'intesa il Ministero della Pubblica Amministrazione e i sindacati, e quindi il protocollo, i dispositivi di protezione individuale, mascherine, barriere e ancora termoscanner agli ingressi. Visto che però parlavamo del sostegno all'economia con le domande, il fondo di garanzia, segnalo quanto oggi ha detto sulla cassa integrazione il presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, Guglielmo Loi. È intervenuto alla D24 questa mattina, 24 mattino, con Simone Spezia e Maria Latella, e ha detto: ci sono circa 120.000 domande nuove dovute ai nuovi decreti che sono arrivati in queste settimane. Mancano tuttora però dai 400 agli 800.000 pagamenti. Alcuni sono più recenti, altri invece si sono proprio incancreniti, cioè alcuni sono il rifinanziamento della cassa integrazione anche negli ultimi mesi, altri sono bloccati. Sentiamolo. Comunque è qualche settimana che non escono dall'istituto, da chi ha la responsabilità, diciamo, come si usa dire, gestionale, operativa, dati completi, lo dico con chiarezza, insomma. Quindi c'è, cioè, non vi stanno fornendo i dati a voi, diciamo, che siete il consiglio di indirizzo e vigilanza. Non sono aggiornati, arrivano solo dati su quanti sono stati pagati, i famosi, non voglio annoiare gli ascoltatori, i famosi SR41, cioè il punto finale di un percorso che l'azienda fa quando chiede la cassa integrazione. Quindi questo oblio fa pensare che ci sono ancora una serie di problematiche. Ci sono circa 120.000 domande nuove, diciamo, con nuovi decreti che sono arrivate in queste settimane, e la cui lavorazione, se non è rapida, creerà un doppio problema: la mancata saldo, diciamo, della precedente ondata con quella nuova. Insomma, ci stanno circa, appunto, 120.000 domande, sì, a ieri, che sono adesso giacenti all'istituto. La stima che facciamo noi è che, con intensità diverse, mancano da 400.000 a 800.000 pagamenti. Alcuni sono più recenti da fare, altri sono invece incancreniti. Ora io dico una cosa al presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza INPS, Guglielmo Loi. Se ho ben capito, è molto grave l'accusa che lei sta facendo, cioè i dati vi arrivano tardi, incompleti, imparziali. Anche dire che, secondo le vostre stime, caro Loi, mancano dai 400 agli 800.000 pagamenti, ma che stima è? Dai 400 agli 800.000 non è dai 400 ai 410.000. Cioè, in un caso è il doppio, cioè non riuscite neanche a quantificare quanti pagamenti manchino con un margine di errore inaccettabile. 400.000 che ballano, potrebbero essere 400.000, potrebbero essere 800.000. Secondo aspetto, ma il presidente dell'INPS Tridico non ha niente da replicare al presidente del Consiglio di Vigilanza? Io, se fossi in Loi, minaccerei le dimissioni se non mi arrivano i dati, se c'è questo oblio, questa mancanza di informazioni. Siccome di Tridico abbiamo già espresso il commento, che per quello che mi riguarda lo associo al ministro Azzolina, cioè mi ha chiesto per la gestione della cassa integrazione, in deroga, le dimissioni, ma si possono ancora chiedere dimissioni, e quindi non ho altri giudizi a dare su Tridico, ma può almeno rispondere al presidente del Consiglio di indirizzo e sorveglianza e farci capire come mai continua l'INPS a essere l'anello debole, il più debole di tutte le misure messe in campo dal governo, come sa bene il presidente Conte, che ha avuto anche un confronto qualche settimana fa col presidente dell'INPS Tridico. Possiamo almeno avere una risposta, non a noi, ma al suo presidente del Consiglio di sorveglianza, e Loi, se vuole un consiglio, visto che è il presidente di un consiglio, se non riceve ancora questi dati, si dimetta. Che sta a fare lì? Sì, no, qualcuno mi dice perché, guardate, di tutte le banche hanno avviato i prestiti con un po' di difficoltà all'inizio, è vero, però adesso da quello che vediamo non riceviamo quasi più segnalazioni di difficoltà a ottenere i prestiti, quelli garantiti dallo Stato ma anche gli altri. L'Agenzia delle Entrate si è mossa bene, secondo me benissimo, da quello che ci segnalate, nei tempi per erogare il fondo perduto, il 20% fino a 400.000 euro di quanto non hai fatturato ad aprile, della differenza di quanto non hai fatturato ad aprile purché sia superiore al 33%. La parte debole continua a essere i 600 euro, perché continuano a scriverci persone: ho ricevuto quelle di marzo, non ho ricevuto quelle di aprile, ho ricevuto quelle di aprile, non ho ricevuto quelle di marzo. E la cassa integrazione in deroga, e deo grazia che la cassa integrazione straordinaria in due terzi è stata anticipata dalle imprese, l'ordinaria, scusate. Va bene, adesso affrontiamo il tema da un lato della task force europea e della task force italiana, perché la Commissione europea ha deciso di dotarsi di una task force per il coordinamento del Recovery Plan Europa. Madonna, quanti inglesismi. Allora, viene creata insieme al Segretariato Generale, inizierà la sua attività il 16 d'agosto e sosterrà gli Stati membri nel preparare i loro piani nazionali di riforma. Lo ha annunciato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario, Margaritis Schinas. A capo della task force europea è stata nominata la vice segretaria generale della Commissione, la francese Céline Gouet. E poi la task force opererà sotto l'autorità della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e coordinerà l'attuazione del recovery plan nei 27 stati membri. A questo proposito, il premier Conte, invece, per quello che riguarda la task force italiana, la cabina di regia italiana, avrebbe deciso di non creare un gruppo di lavoro specifico, ma di, io dico meno male, mancava solo un altro comitato tecnico economico, ma di affidare il compito al CAE, che non è CAO, ma è CAE, il Comitato Interministeriali Affari Europei. Fu istituito da Mario Monti ed è composto da tutti i dirigenti ministeriali e tutti i ministeri interessati alle proposte che l'Italia invierà all'Unione Europea. È presieduto direttamente da Palazzo Chigi, quindi dal Premier Conte. A coordinare i lavori sarà il Ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola. E sostanzialmente Amendola ha anche la delega a convocare e presiedere l'organismo. Al tavolo si siederà anche il Ministro dell'Economia, ovviamente Gualtieri, il Ministro degli Esteri Di Maio e poi anche gli inviti a regioni e comuni come rappresentanza degli enti locali. Il tutto mentre il Ministero ha risposto in maniera molto seccata a ha smentito quanto aveva scritto oggi Gianni Trovati del Sole 24 Ore relativamente all'utilizzo del MES. Il Ministero dice che non c'è nessun problema di cassa per il bilancio dello Stato. In merito ad un retroscena del Sole 24 Ore e alle strumentalizzazioni politiche che ne sono conseguite, si precisa che il ministro Gualtieri non ha mai pronunciato le parole attribuitegli del titolo del quotidiano e che ovviamente per il bilancio dello Stato non esiste alcun problema di cassa. Ora, che per il bilancio dello Stato non esista un problema di cassa, sì, ho capito, siamo arrivati a 100 miliardi di scostamento. Però insomma tutta questa reazione l'ha generata Gianni Trovati, che è ospite in collegamento con noi. Buonasera Gianni. Buonasera a voi. Allora, hai ordito trame notte tempore, va bene, adesso vediamo di capire che cosa è successo. Facciamo così, meteo pubblicità e poi invece ci spieghi che cosa hai scritto che ha portato una risposta così forte del MEF. Tu hai scritto del MES. Risponde MEF, ma anche il vice ministro Castelli ha detto: non commento indiscrezioni, i conti dell'Italia sono in ordine. A me fa impazzire la Castelli, i conti dell'Italia sono in ordine, non capisco cosa voglia dire, nel senso che se abbiamo sospeso il patto di stabilità non esiste neanche un modo per capire se i conti sono in ordine o no. Vabbè, ma comunque alzare continuamente l'asticella non serve a far lavorare bene il paese. Abbiamo centinaia di miliardi da spendere, oltre ai 209 che provengono dal Recovery Fund, molti fermi nelle casse dello Stato. Con il decreto semplificazione abbiamo messo in condizioni per far ripartire tutto. Pensiamo a questo e a programmare bene i fondi del Recovery. Tutto questo pur di non pronunciare la parola MES o punta MES, come ho detto io, perché mi sembra che il tema sia la parola in sé. Allora, dopo il meteo ci racconti che cosa hai ipotizzato. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Minuti, devo dire che anche l'opposizione ha commentato l'articolo del Sole 24 Ore, perché Salvini ha detto pur di rifilarci il MES come pretende il suo PD, il ministro Gualtieri parla di problemi di cassa per l'Italia. Dopo mesi di lockdown cosa si aspettava? Ancora, anziché gli italiani, il PD tutela gli interessi della Troica. Bernini, Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, ha detto al governo chiarisca la situazione delle finanze pubbliche. Autorevoli indiscrezioni raccolte da Sole 24 Ore attribuiscono al ministro Gualtieri la frase secondo cui il MES diventa decisivo per evitare problemi alle casse dello Stato. Allora, Gianni Trovati, la versione originale, perché abbiamo in collegamento, e poi dirò quello che penso del MES, ma è abbastanza scontato. Molti mi stanno scrivendo la frase la Castelli, guardate, non è che posso commentare la Castelli ogni volta, ho già detto che è una gaffeur in economia abbastanza inarrivabile, e c'è tutta una bibliografia su questo. Secondo me è leggermente entusiastica la frase, i conti dell'Italia sono in ordine, abbiamo centinaia di miliardi da spendere, oltre ai 209 che provengono dal recovery, molti fermi nelle casse dello Stato, se lo sente un olandese, poi riapriamo tutto il tavolo del recovery. Comunque, Gianni. Allora, buongiorno a tutti. Quello che noi abbiamo raccontato sul giornale è il resoconto fattoci da più fonti su una riflessione sul tema che è stato posto alla riunione dei capi delegazione che ha presieduto il Consiglio dei Ministri. Il tema è sostanzialmente questo: il governo si appresta a fare per il decreto di agosto un livello di deficit 25 miliardi che è superiore a quello che era stato ipotizzato inizialmente. Si parlava di un'oscillazione tra 10 e 20 miliardi, c'è stato nelle settimane scorse il solito tira e molla tra chi, soprattutto il Ministero dell'Economia, puntava per stare molto bassi sul nuovo deficit, chi puntava invece per alzare l'asticella. Alla fine si è arrivati oltre i 20 miliardi preventivati come tetto massimo all'inizio. Questo aspetto determina il fatto che devono accelerare ulteriormente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, le emissioni di titoli di Stato appunto indispensabili per finanziare questo nuovo deficit. Questa accelerazione rende ancora più importante la richiesta dell'Italia di accedere al MES, perché ti dà risorse, diciamo così, fresche e a tassi di interesse zero sostanzialmente, come è già stato chiarito in più opere. Naturalmente, come dire, si prende atto, come ovvio che sia, della smentita riferita al titolo che ovviamente sintetizzava in quattro parole, perché i titoli di giornale sono 4-5 parole, tutto questo tema, ma insomma il punto è questo: urge una decisione, urge superare soprattutto, come dire, tutte le timidezze politiche sul tema, anche perché all'interno del governo, oltre alla divisione fra chi vuole accedere al MES e chi dice di non volerlo, anche tra chi è tifoso e favorevole al MES, c'è poi una divisione su come utilizzare queste risorse, perché tra le ipotesi tecniche che a quanto ci risulta stanno portando avanti in particolare al Ministero dell'Economia, c'è utilizzare il MES almeno in parte in sostituzione di fondi di stanziamenti di bilancio già presenti nei tendenziali già finanziati col debito, diciamo, sovrano. Questo perché? Perché altrimenti il MES in sé è un altro prestito e quindi è un'altra richiesta di disavanzo, seppur accompagnata da tassi zero a differenza dei nostri BTP, e quindi aumenterebbe ulteriormente il livello di deficit di quest'anno. Il ministro Roberto Speranza, il ministro della Salute, proprio a Radio 24 ieri mattina, sì, ha testimonianza, diciamo, del fatto che questa discussione, ha testimonianza esplicita del fatto che questa discussione è in corso, ha detto sostanzialmente no, i soldi del MES servono per il finanziamento di nuove spese in sanità. No, ma guarda, siccome già devi difenderti, tra virgolette, dall'attacco della correzione del Ministero dell'Economia e Finanze, non ti obbligo a ricordare Speranza, te lo faccio proprio sentire perché più chiaro di così non si poteva, e cioè ha detto il ministro 20 miliardi va bene anche il MES. Io credo che serva una cifra dai 20 miliardi su, se vogliamo fare un'operazione vera, copernicana, di cambio reale, profondo, sul nostro Servizio Sanitario Nazionale. Gli ambiti sono vari, noi abbiamo bisogno di un grande investimento sulla sanità digitale, tema su cui l'Italia è, ahimè, in ritardo, abbiamo bisogno di un grande investimento sulla sanità del territorio, sui nostri presidi ospedalieri. C'è un tema enorme, per esempio, che riguarda la nostra capacità come paese di attrarre gli straordinari investimenti che ci sono a livello globale sull'industria farmaceutica. C'è un grande tema di relazione tra sanità e ambiente. Cioè, io penso che noi dobbiamo lavorare a un grande piano di rilancio del nostro Servizio Sanitario Nazionale, della nostra sanità pubblica. Noi abbiamo un grande Servizio Sanitario Nazionale che ha retto anche in questa prova molto difficile, ma è un Servizio Sanitario Nazionale che viene da una stagione di tagli, una stagione lunga. Oggi abbiamo bisogno di una nuova fase espansiva, serve un grande piano di sviluppo. Dal mio punto di vista usiamo tutti gli strumenti possibili in campo. Io non ho pregiudizi sul MES, non ho pregiudizi sul Recovery Fund, non ho pregiudizi sul bilancio dello Stato. L'importante è che le risorse arrivino, perché ce n'è profondamente bisogno. Quindi Gianni, no, più chiaro di così non poteva essere, ma se al di là della tua ricostruzione, insomma, è chiaro che c'è uno scostamento di bilancio più ampio, il governo ha fatto uno scostamento di bilancio ormai con quello da 25 miliardi che arriverà, da 100 miliardi se non ricordo male, no? Esatto. 25 più 50 più 25, vado a memoria con i vari decreti, ma è chiaro anche un altro punto a me, che come ha spiegato bene Adriana Ceretelli, è difficile utilizzare il recovery, lo dico anche con estrema modestia al vice ministro Castelli, per spese sanitarie, perché ti potrebbero obiettare in Europa che per le spese sanitarie dirette e indirette c'è già lo strumento che è il MES Covid, e quindi poi voglio dire a chi mi scrive: ecco, sfruttate il Covid per coronare il vostro sogno, la Troica, vergognatevi. Guardi, io non so nemmeno cosa sia la Troica a sto giro, perché c'è stato un braccio di ferro in Europa proprio per evitare quella che lei chiama Troica, che era un'altra storia, perché c'era di mezzo anche il Fondo Monetario Internazionale, la BCE, la Commissione Europea, quella era la Troica sulla Grecia. Qui non c'è il Fondo Monetario Internazionale, non c'è la BCE che ci sta dando una mano, e c'è la Commissione Europea che valuterà i piani di utilizzo. Quindi non è che, siccome un leader politico parla di Troica, magari in assenza di altre analisi più articolate, lei deve ripetere la stessa cosa. Non c'è nessuna troica in questo momento, ma se lei vuole indebitarsi per questi 25 miliardi con il tasso attuale all'1,25-1,34% per 10 anni, va bene, il MES lo dà meno 0,07 nei primi anni, cioè addirittura hai un micro rimborso, e nell'arco di 10 anni hai un tasso di interesse dello 0,08%. Ecco perché si dice che risparmieremo 500 milioni circa all'anno, per un totale di 5 miliardi sui 10 anni, ma mi sembra, insomma, che tutto ruoti attorno a sto nome MES, Gianni. Sì, esatto, e poi soprattutto è complicato, dicevi tu, usare giustamente i fondi del recovery per le spese sanitarie, ma è addirittura più complicato, cioè è impossibile utilizzare i fondi del recovery quest'anno. Il MES, la differenza, diciamo, sostanziale tra il MES e i prestiti del recovery è che il MES è disponibile quest'anno, i prestiti del recovery saranno disponibili a rate nei prossimi anni. Sì, oddio, tu puoi anticipare, come ci ricordavi tu, il 10% delle spese sostenute da febbraio, se non ricordo male. Che siano però compatibili con gli obiettivi del recovery. Ma il punto è stato detto, no? Siccome rispetto all'ipotesi iniziale è aumentato di 34 miliardi la quota di prestiti del recovery, allora questo aumento rende sostanzialmente inutile, toglie di mezzo, sgombera il campo dal MES. Questo ragionamento è un po', come dire, zoppicante, perché è come se, siccome tu domenica prossima mi inviterai a pranzo, io smetto di mangiare perché tanto mangio domenica prossima. Beh, è un po' complicato. Conosco qualcuno che la sera prima di un invito a cena fa così. Qualcuno può farlo, però ecco, a livello di gestione delle finanze pubbliche un ragionamento del genere non tiene, perché il punto è la dinamica dei prossimi, il primo punto da affrontare è la dinamica dei prossimi mesi e nella dinamica dei prossimi mesi l'aumento rispetto al budget iniziale della quota di prestiti attivabili nell'ambito del recovery fund è completamente influente. Allora, l'altro tema, io non ho detto che il MES non ha condizionalità, ho detto che ha delle condizionalità molto limitate rispetto al MES, quell'altro, e nello specifico deve essere destinato ai fondi per le spese sanitarie dirette e indirette. Guardate che la condizionalità, ripeto, non è che ogni volta che c'è una condizione c'è la troica, il commissario, a parte il fatto che se uno prende i soldi in prestito, da che mondo è mondo, qualcuno che vada a controllare come li usi, c'era anche prima con i fondi europei, c'è anche quello che il tasso di interesse che noi pratichiamo sui BOT, sui BTP, altro non è che la fiducia o la non fiducia dei mercati su come useremo questi soldi, su come reggerà l'economia italiana, Comunque, detto questo, ripeto, si vada sul mercato, indebitiamoci con BTP e lasciamo stare il MES, tanto chi se ne frega di 5 miliardi. Senti, la tua sensazione però, Gianni, è che alla fine poi si utilizzerà, oppure il tema politico e quindi l'opposizione di parte dei 5 Stelle, che ne hanno fatto un baluardo, impedirà di arrivare all'utilizzo del MES? La mia personale sensazione è che si utilizzerà il MES. C'è un tentativo di parte della maggioranza di spostare in avanti il problema per il fatto che tra l'altro il 20 settembre ci sono delle elezioni regionali e quindi di scavallare, diciamo, quell'appuntamento elettorale e poi prendere in mano definitivamente il dossier nei giorni successivi. C'è il problema che il 20 settembre non è domani. Dunque, c'è qualcuno che contesta invece il ministro Speranza, che ha detto che il sistema sanitario ha retto, questo è assolutamente legittimo. No, l'ultima domanda invece te la voglio fare proprio sulla parte che riguarda il credito privilegiato. Cioè, una delle critiche che viene fatta al MES è, attenzione, la spiego male ma per farmi capire, ha una corsia privilegiata in caso di rimborso, perché appunto non è come andare a reperire le obbligazioni normali sul mercato. Ma allora, tutti questi, premesso che la quota del MES sul debito pubblico italiano sarebbe talmente irrilevante, sì, che come dire, non riuscirebbe ad avere questo effetto, ma tutti questi discorsi che individuano, diciamo, ragioni tecniche indirette, lo stigma dei mercati, se uno chiede il MES eccetera, partono da un presupposto sbagliato, cioè che i mercati oggi non abbiano la minima idea di quanto sia il debito italiano, non sanno che abbiamo un debito pubblico molto elevato. Più o meno 2.300 miliardi di euro, eravamo al 132. E quindi se tu pigli il MES se ne accorgono che c'è un problema che loro ignorano, mi pare che sia un presupposto piuttosto fallace. Va bene, tanto vedo che insomma, c'è qualcuno che ormai, ripeto, ne fa un tema completamente ideologico, vedremo. Guardate che da qualche parte i soldi bisogna prendere, lo dico al di là delle analisi dei centinaia di miliardi che vede la Castelli nelle casse dello Stato, dove saranno. Sì, ci sono soldi che non siamo riusciti a spendere anche di carattere comunitario, ma centinaia di miliardi non li vedo. Hai ragione nel dire che i 38 miliardi massimo, che poi non è che devi prendere il massimo, può prendere fino al 2% del PIL, rappresenterebbero una goccia nell'ambito dei 2.300 miliardi di debito pubblico che abbiamo. Da soli abbiamo un terzo di tutto il debito dell'Unione Europea, ma lo dico così per ricordare a chi, come il ministro Castelli dice, i conti dell'Italia sono in ordine, ma io vorrei sapere qual è l'ordine di riferimento della Castelli. perché se c'è una cosa chiara è che per reagire a questa pandemia partita dalla Cina, tutti i paesi, incluso l'Italia, hanno dovuto sfondare deficit, aumentare il debito e via così. E andare, e tant'è che anche l'Europa altro non fa che creare un nuovo debito con 750 miliardi da raccogliere sul mercato. Poi i conti dell'Italia sono in ordine, il conte dell'Italia sarà in ordine, ma non i conti. Comunque, grazie anche a Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Parlo più del MES perché tanto è inutile, qualcuno dice faremo la fine della Grecia, non c'è nulla di scritto che il MES non sarà come la Grecia, ma va bene, non prendiamo sti 38 miliardi con il MES, andiamo a fare una bella emissione di BTP a 10 anni e piantiamola con sto MES, tanto se il problema è ideologico è come la TAV, qua sono gli acronimi che mandano in bestia anche i 5 Stelle oltre che la Lega, ma la Lega sulla TAV e la TAP devo dire no. TAV, TAP, MES, tutto quello che è un acronimo viene visto come fumo negli occhi. Andiamo sul mercato e facciamo altro debito, che tanto quello non ha condizionalità, dai. Però il recovery, grande successo, che ha una marea di condizioni, è molto più un percorso da guardare, per fortuna, visto che sono soldi degli europei, con attenzione da essere approvato, quello del recovery rispetto al MES. Ma tanto uno può andare avanti un'altra ora di programma e non ho nessuna intenzione di fare così. Andiamo sui mercati invece, che oggi chiudono deboli, meno 2% Parigi, meno 1,5% meno 2% Francoforte, meno 1,5% Parigi, meno 1,80% Milano, Londra meno 1,40%, l'America meno 0,50%. Questa mattina dicevamo l'Asia ha chiuso male per via delle tensioni tra Cina e Stati Uniti sulle chiusure consolari, chiamiamole così, 3,5% aveva perso Shanghai e a Hong Kong meno 2,20%. Flavia Carletti, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Un commento sulla giornata e poi però un commento sull'andamento dell'operazione OPS Intesa San Paolo su UbiBanca. Sì, appunto, come dicevi tu, gli indici oggi hanno chiuso tutti in negativo, erano già partiti male questa mattina, influenzati proprio dall'andamento delle borse asiatiche, e in particolare, diciamo, oltre a Hong Kong e Shanghai, da segnalare anche che la borsa di Shenzhen, che è la seconda borsa cinese, ha perso il 5% proprio sulle tensioni tra Cina e Stati Uniti a livello diplomatico. Quindi diciamo che questo è stato oggi un po' il focus sui mercati. Si sono ignorati i dati macroeconomici che sono arrivati in mattinata, avevano dato un po' di sollievo agli indici europei, soprattutto quelli, l'indice PMI, quello dell'indice dei direttori degli acquisti, che a livello manifatturiero ha mostrato un recupero. Gli indici in Europa, nella zona euro, è tornato sopra i 50 punti, che indica un'espansione economica, e questo è stato visto positivamente. Quindi è stato un fattore che ha limitato parzialmente, sempre, diciamo in maniera limitata, le perdite in mattinata. Poi anche con l'apertura di Wall Street negativa, diciamo, sono aumentate le vendite e quindi alla fine c'è stata questa chiusura negativa, perché poi si aspettano eventuali ulteriori azioni, perché sono state poi dichiarazioni di Pompeo abbastanza sprezzanti nei confronti dei cinesi, e ora si attende che si tema un'escalation, insomma, di questa situazione a livello diplomatico molto tesa. Mentre invece, appunto, UbiBanca Intesa San Paolo continua il periodo in cui è possibile aderire all'OPAS di Intesa Tubi. Oggi però, appunto, i titoli hanno risentito della debolezza generale. Intesa ha perso l'1,8% e Ubi l'1,2%. La novità, diciamo, di questa offerta è che ieri sera il CDA di UbiBanca ha rinnovato, diciamo, la sua contrarietà all'offerta di Intesa, nonostante Intesa abbia aggiunto, oltre alla parte di scambio di azioni, anche una parte cash. Secondo Ubi comunque continua a non valutare nella maniera corretta il vero valore della banca, e quindi loro continuano a mostrarsi contrari all'offerta, anche se comunque le adesioni continuano. Ieri sera si è superato circa il 26%, e quindi comunque, diciamo, continua a tenere banco, ed è sempre, insomma, sono sempre titoli che rimangono sotto i riflettori. Sì, devo dire che alla luce anche della tua analisi, poi insomma, sui singoli titoli, Nexi meno 6,11, Pirelli meno 4,20, Unipol meno 4,20, Diasori meno 3,90, Atlantia meno 3%, come Ferrari e Buzzi Unicem. Mi fermo con chi ha chiuso più del 2%, con chi ha perso più del 2%, meno 2,5% stima Credtronics e Interpump e Banca Generali, anche ricordati il 2,30 il calo di Hera e di Enel, il 2,20 quello di Exor e di Azimut, parlavamo di Intesa San Paolo meno 1,80%, Ubibanca meno 1,20%. Grazie anche a Flavia Carletti, Radio Cori, Il Sole 24 Ore. Vedo qualcuno ha ragione l'ascoltatore, il debito italiano purtroppo non è a 2.300 miliardi, a 2.440 miliardi. Comunque non cambia il ragionamento che, diciamo, 38 miliardi di MES sparirebbero, altro che creerebbero l'allarme sui mercati. Però ripeto, basta, andiamo invece al GR24 e poi alla luce dei dati di oggi, quelli spero non contestabili, sull'andamento dei responsabili di acquisti europei, è cresciuto l'indice PMI per la prima volta dal Covid, è tornato sopra i 50 punti, 50 punti stabiliscono la differenza tra espansione economica e recessione economica, è l'indice che misura le intenzioni dei direttori acquisti di migliaia di gruppi europei, sia nella manifattura che nei servizi, e si chiama indicatore anticipatore, perché di solito da lì tu capisci che si sta tornando a crescere oppure capisci che si sta frenando, e delle volte anche di brutto. E legare questi dati di carattere europeo anche a un commento che ci aveva un po' incuriosito di un imprenditore che ogni tanto invitiamo, o meglio invitiamo sempre quando c'è l'astrologa, ma non solo con l'astrologa, ne parliamo dopo il GR24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. A chi mi chiede quando tornerà la poco invidiabile classifica, tornerà a settembre, se appunto la situazione resterà di relativa normalità, faccio qualunque scongiuro possibile. Tra l'altro segnalo che da lunedì prossimo parte anche il palinsesto estivo di Radio 24 con molte novità a partire da mattina. Focus Economia resta in versione come ogni anno estiva e quindi terminerà alle 18. Chiudo la nota di servizio e andiamo invece all'approfondimento di questa parte, e mi riferisco da un lato allo spunto che, come ricordavo prima, c'è stato offerto dall'indice PMI composito, è l'indice dei responsabili di acquisti del settore manifatturiero e del settore servizi. È un indicatore anticipatore, quindi vuol dire che se cresce quello ci sono ottime possibilità che l'economia cresca, se cala quello sotto i 50 punti che lo spartiacque ci sono ottime probabilità che l'economia rallenti. Allora, era a 48 punti e mezzo a giugno, dopo essere crollato sotto anche i 40 a chiaramente marzo e aprile, e adesso per quello che riguarda il mese di luglio è balzato a 54,8 punti. Oltre che essere ampiamente sopra i 50 punti, e quindi sopra quello che viene definito il livello di espansione dell'economia e non di rallentamento o stagnazione, è anche il più alto dal giugno del 2018. Vola soprattutto in Germania, dove ha toccato i 55,5 punti al massimo dall'agosto del 2018. Ed era 47 punti, quindi sotto i 50 punti a giugno. E unisco a questo, diciamo, dato di oggi il commento fatto su Sole 24 Ore da un economista, no, ma un imprenditore sì, perché la sua TIP ha partecipazione in tantissime società, e mi riferisco a Giovanni Tamburi, che alcuni di voi ricordano, visto che ha partecipato ogni anno anche lo scorso vigilia di Natale alla famosa puntata con l'astrologa Giovanni Tamburi. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti voi. Non che lei sia famoso solo per l'astrologa, ci mancherebbe, perché la Tamburi Investment Partners ha partecipazioni in Amplifon, Digital Magics, Ferrari, Hugo Boss, Moncler, Azimut, Italy e quant'altro. Allora, ed è quotata in borsa. Perché l'abbiamo invitata? Perché abbiamo letto con interesse, lo dico senza ironia, un suo commento in cui dice: attenzione, dai mercati sta arrivando una lezione, io aggiungerei anche iniezione di ottimismo, e da un lato le banche centrali, dall'altro lo spending, quindi le spese, i finanziamenti pubblici anche in deficit, stanno vincendo facendo premio su tutto, sui conti delle aziende, sulle pandemie, sulle possibili recessioni. Allora, la prima domanda parzialmente provocatoria, ma non è che i mercati stiano guardando un altro mondo rispetto a quello reale? Assolutamente no, anche perché se qualcuno avesse questo dubbio dovrebbe ripensare alla crisi delle dot-com, alla crisi dei subprime, a tutte le crisi precedenti che tutti abbiamo pensato che fossero crisi epocali, storiche, disastrose, che avrebbero distrutto qualunque cosa. In realtà in tutti i casi degli ultimi 20 anni la uscita è stata molto più veloce, molto più violenta di quanto non si pensasse. Per cui anche questa crisi, anche il fatto che i mercati abbiano in buona parte recuperato il momento della crisi, del momento del Covid, è una dimostrazione che i mercati credono al futuro. E il dato che lei ha citato poco fa degli acquisti è lì a dimostrarlo. Le nostre stesse partecipazioni stanno avendo una serie di ordini di giugno e luglio molto buoni, in alcuni casi addirittura superiori all'anno record che è stato l'anno scorso. Gli elementi che secondo lei contribuiscono a creare questa lezione o iniezione di ottimismo, uno lo citavo, le banche centrali anche, e quindi la grande, la massiccia operazione da 750 miliardi di quantitative easing della Christine Lagarde, che va sulla scia, nell'alveo di quanto fatto da Mario Draghi. Così rispondo anche chi mi dice: mi scusi, ma perché non possiamo stampare moneta? Cioè, di fatto lo stiamo già facendo, la banca centrale usa quei soldi per comprare titoli di Stato dei vari paesi, a partire da quelli italiani. E l'altro elemento sono le politiche di spesa, per esempio penso anche alla reazione dei mercati all'accordo sul Recovery Fund. E vede qualche altro elemento per questa, diciamo, iniezione di ottimismo? Ma innanzitutto ottimismo sembra un aspetto più psicologico, un atteggiamento mentale. I numeri devono contare, al di là di ripetere il dato che lei ha citato prima. Io credo che l'economia reale sia più importante che tante altre cose. L'economia reale sta riprendendo bene, gli acquisti stanno riprendendo in maniera molto vivace dopo il lockdown che è stato mondiale e che è tuttora, ricordiamoci, in alcuni paesi. In America c'è ancora una crisi molto forte, tanti negozi chiusi, tante aziende chiuse, tanti disoccupati. Però comunque essenzialmente dall'Asia ci arriva una forza di volontà di crescere, volontà di investire, volontà di consumare, che sta travolgendo un pochino tutto. Per cui, oltre alle questioni di carattere finanziario, essenzialmente la stampa di moneta, perché lo spending dobbiamo ancora vederlo, però la stampa di moneta c'è stata, l'economia reale sta rispondendo, a mio avviso, molto bene, sia con gli ordini che con i fatturati. Allora, cito alcune delle obiezioni che mi stanno, come era prevedibile, arrivando. Da un lato, diciamo, insomma, di quale settore sta parlando? Cerco di sintetizzare in questo modo. Lei si sta riferendo, Tamburi, a quello che vede anche nella società in cui partecipa come azionista, ma dicevo in quello che vede nel mondo manifatturiero, perché per esempio oggi un altro dato a mio avviso interessante, che adesso cerco di andare a riprendere, era l'andamento del commercio extra UE dell'Italia. Perché lo dico? Perché siamo sotto ancora del 15% rispetto a un anno fa, mese di giugno questo, non è luglio, meno 15,6, però su maggio c'è stato un più 15%. La cosa più importante è che il commercio extra UE, le esportazioni extra Unione Europea italiane, avevano fatto meno 44% ad aprile, meno 31% a maggio, e adesso hanno fatto meno 15% a giugno. Se dovesse essere mantenuta questa progressione, sempre rispetto a un anno prima, forse luglio andremmo in pareggio. Allora l'obiezione non è che lei sta parlando del mondo manifatturiero e magari quello che esporta, dimenticando quello che è per esempio la realtà dei servizi commerciali, dei servizi del turismo, ristorazione, catering, abbiamo, diciamo, mi hanno scritto anche il mondo delle crociere, insomma tutti albergatori e ristoratori, quando non in località di mare, agenzie di viaggio, cioè che c'è tutto un mondo che non rientra però nella parte manifatturiera in senso stretto. Allora, è giustissimo, nel senso che far dormire un fascio è sempre sbagliato, e per cui ho fatto un discorso generale di economia. Noi siamo il più grande operatore turistico italiano con Alpitour, e per cui sappiamo bene che stiamo soffrendo in maniera mostruosa, per cui è chiaro che disaggregando l'analisi per settore ci sono settori che stanno andando meglio e settori che sono ancora sotto uno shock incredibile. Se pensiamo che il fatturato di questi giorni di un gruppo come Alpitour, che è di gran lunga il più grande gruppo turistico italiano, non fa un euro con gli stranieri, questo già la dice lunga, per cui capisco la ristorazione. Noi abbiamo Italy che sta da una parte soffrendo come ristorazione interna, dall'altra beneficiando delle aperture dei ristoranti all'aperto. In queste sere i ristoranti di Italy a Milano sono strapieni con prenotazioni eccetera, per cui va tutto disaggregato in maniera molto attenta. Quello che però secondo me è importante per gli ascoltatori è questo: avevamo la paura durante il lockdown che vincesse la paura sulla voglia di uscire, di recuperare, di consumare e di fare, di avere una vita attiva. Mi pare che in tutto il mondo questa grande paura, questo terrore di uscire sia stato superato dalla voglia di consumare, dalla voglia di rivivere. Anzi, addirittura in alcuni settori si nota, e penso alla casa per esempio, elettrodomestici, arredamento eccetera eccetera, la gente sta spendendo sulla casa come non ha mai speso in passato. Perché la battuta però è facile, perché quando sei rimasto chiuso in casa per 3 mesi ti sei accorto che casa tua faceva anche schifo, e quindi appena ti hanno riaperto e ti hanno lasciato uscire si spende per la casa. È verissimo, non è solo i dati di Ikea ma anche tutto il legno arredo che va molto bene. Però l'ho interrotta, prego Tamburi. No, per cui è giusto disaggregare, sono giuste le osservazioni, stanno spostandosi i consumi. Però adesso il punto vero, lei che sa che io amo sempre provare a guardare al di là, è i consumi di noi tutti, di qui a qualche mese, come si evolveranno? Noi abbiamo visto negli anni come mangiavamo di meno e consumavamo di più sui telefonini, sulla tecnologia, certo, eccetera, eccetera. Adesso è venuto fuori questo fenomeno casa. Cosa succederà fra qualche mese? Onestamente non lo sa nessuno. Primo, perché dobbiamo capire, dopo l'estate, se ci sono i focolai dell'autunno, la recrudescenza del male, se l'America esce da questo tunnel forte che ancora in California, Florida, eccetera, sta colpendo pesantemente. Alcuni paesi addirittura stanno richiudendo alcune cose. Io personalmente sono molto positivo perché vedo che ci sono grandi allarmi per piccoli numeri di contagi e decessi quasi a zero, per cui è più un fenomeno mediatico. Io ieri ho polemizzato anche su questi dati perché vorrei che nei nuovi contagi venisse chiarito quelli che sono asintomatici e il livello clinico di questi contagi, cioè quanti vengono ricoverati, quanti vengono ricoverati in forma lieve, in forma più pesante o addirittura in terapia intensiva, perché sennò il numero dei contagi non mi dice nulla. Però Tamburi, dopo il traffico le chiederò un'ultima cosa, visto che lei citava giustamente le differenze enormi tra i settori. Io continuo a dire come un mantra che si dovrà iniziare dal punto di vista del governo ad analizzare i settori economici come le famiglie infelici di Tolstoi, cioè ogni famiglia è infelice a modo suo, non si può fare tutto un erba un fascio. Mettere assieme per esempio ristoratori e albergatori della costa e della riviera, poco fa il sindaco di Ponza ha dichiarato che hanno il 50% in più di presenze, dovute a presenze diciamo di locali, di persone che abitano in prossimità rispetto all'anno scorso. Testimonianza di tutti noi è quello che c'è sulla costiera emiliano romagnola ma anche marchigiana, soprattutto i fine settimana o costiera toscana. Altra cosa sono i ristoranti, gli alberghi, dei centri storici o delle zone uffici. Che consiglio vorrebbe dare al governo, visto che deve approntare appunto la task force per capire come utilizzare i soldi del recovery fund, per evitare da un lato di lasciare indietro qualcuno ma dall'altro di fare delle inuguaglianze premiando anche chi non ne ha bisogno, ne ha molto molto meno bisogno, perché sostanzialmente sta tornando o ha già superato i livelli di un anno fa. Dopo il traffico la risposta. Logica, spazio, tempo, modul block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Focus Economia. Minuti. Allora, Giovanni Tamburi, visto che anche lei riconosce enormi differenze tra settori e settori, tra manifatture e servizi e anche all'interno dei vari settori, facevo l'esempio dell'alberghiero, della ristorazione, per evitare di lasciare qualcuno indietro, ma allo stesso modo di dare soldi a pioggia e quindi di dare benefici a chi non ne ha tutta questa esigenza, lei come si muoverebbe nella task force che deve andare a delineare i piani, scrivere i piani di utilizzo del recovery fund? Ma io darei due risposte. Una prima risposta la darei agli ascoltatori risparmiatori che in fondo sono interessati fino a un certo punto a quello che può fare il governo, e poi io anche storicamente e psicologicamente non sono di quelli che va a pensare a che cosa fa il governo. Secondo me oggi i risparmiatori devono investire, se vogliono stare più tranquilli, in manifatturiero, come diceva lei prima, industria, in società diversificate che abbiano più settori e che possano abbracciare nell'ambito della propria attività una diversificazione prudente, interessante, eccetera. Terzo, società robuste finanziariamente. Questo tipo di crisi fa male alle società molto indebitate e che hanno tirato molto la corda. Proprio queste sono le tre indicazioni che io darei agli ascoltatori, che poi il messaggio forte che credo che Radio 24 e Focus Economia diano da sempre. Per quanto riguarda il governo, certamente il governo ha ignorato il turismo in maniera vergognosa, e per cui prima cosa che deve fare è lì, anche perché dare gran soldi a delle società che non ne hanno bisogno, come diceva lei prima, è abbastanza assurdo. Per cui la priorità che il governo deve dare, e non si capisce perché il governo ha ignorato in questa maniera così forte il turismo, è lì. La seconda cosa che il governo dovrà fare in un paese che ha delle infrastrutture deboli è investire in infrastrutture più che sulle aziende. Noi dobbiamo dotar, e qui mi è rimasto sospeso il dotar, ci immagino di non capisco se è un problema tecnico di linea o adesso lo riprendiamo, immagino Tamburi volesse dire dobbiamo dotarci, visto che parlava di infrastrutture. Adesso, se volete, posso anche andare avanti io, dotarci di un sistema infrastrutturale più che di aiuti alle aziende. Vediamo ad oro quando salta la linea alle 18:24 di venerdì, ultimo blocco del programma della settimana. Ecco di nuovo Tamburi, prego. Dobbiamo dotarci, Tamburi? Di infrastrutture, cioè noi dobbiamo investire sempre più in infrastrutture per il paese, per cui porti innanzitutto, aeroporti, strade. Adesso non voglio entrare nella polemica dell'operazione autostrade perché non c'è il tempo e non ho nessun titolo per farlo, però certamente la miglior spesa che il governo può fare sono le reti, perché tecnologicamente siamo molto indietro, e tutto quello che può servire a tutte le imprese. Queste sono secondo me le due priorità che il governo deve avere. Dopodiché che stiano molto attenti a prestare soldi e non dare soldi a fondo perduto, a fare eventualmente delle operazioni in equity ma pari passo, che io stesso ho suggerito al governo in più occasioni, e per cui dove c'è il privato che investe e fa l'istruttoria, anche il governo deve mettere i suoi soldi. Che il governo li metta da solo, storicamente si è dimostrato che non ha fatto bene, per cui che stiano molto molto attenti a voler fare gli imprenditori. Questo è il mio modestissimo parere. Senta, un'ultima domanda da investitore, glielo chiedo, appunto, visto che lei ha partecipazione in tantissime società. Lei è ottimista in questo caso e dice insomma la reazione migliore delle attese, grazie, l'abbiamo spiegato, al combinato disposto di vari fattori, banche centrali e piani di spesa. Che cosa potrebbe andare storto? Nel senso, dov'è che lei mette non l'incertezza ma il rischio? Il rischio lo metto sul fatto che se si dovesse esagerare l'effetto della recrudescenza di contagi in autunno, e per cui se ci dovesse essere un freno all'economia che già si è dimostrato che è stato eccessivo rispetto a quello che stava succedendo, questo può essere un rischio molto molto grosso e che onestamente non ci dobbiamo permettere. Dobbiamo, come imprenditori, come opinion leader, voi come media, cercare che il governo italiano ma anche tutti gli altri governi evitino di avere questa fifa, questa paura di sbagliare, e per cui chiudano per evitare che succedano delle cose che poi alla fine non succedono. Pensiamo alla polemica sulle persone da non mandare in fabbrica, sulle riaperture, di cui abbiamo parlato su Sole 24 ore due o tre volte, si è visto che i decessi nelle fabbriche sono stati attorno al 3%, mentre nelle RSA, negli ospedali e le persone anziane già in pensione, lì sì che venivano colpite. Per cui evitiamo demagogie, paure e eccessi di prudenza. Ecco, in una battuta, lei non mi ha citato però la variabile estera, nel senso che abbiamo visto di nuovo chiusura dei consolati in America e poi in Cina come ritorsione, e quindi tensioni molto forti anche per il periodo elettorale americano tra Cina e Stati Uniti. Una gestione dell'epidemia negli Stati Uniti che quantomeno lacunosa, cioè non teme che la variabile per un paese esportatore come il nostro possa arrivare anche dai mercati esteri più che dai consumi interni? In parte sì, però abbiamo visto nei mesi scorsi, quando i mercati magari qualche giornata crollavano del 3, 4, 5% perché Trump ha fatto chissà quale cosa o perché la Cina ha risposto in maniera energica. Poi l'hanno recuperato, cioè i mercati sono molto più forti di queste polemiche, di questi dispetti, di queste manovre fra cinesi e americani o fra americani ed europei, per cui io non sarei molto preoccupato di questo. È l'economia reale che deve eventualmente preoccuparci e i rischi, come dicevo prima, sull'economia reale possono arrivare da un atteggiamento della politica eccessivamente cautelativo. Allora, grazie anche a Giovanni Tamburi. Vedo che alcuni dicono ha ragione, altri lo contestano, vive in un altro mondo, ma infatti appunto noi ascoltiamo tutte le opinioni. Grazie anche a Giovanni Tamburi, presidente e amministratore delegato di Tamburi Investment Partners. È veramente tutto per questa puntata, per questa settimana di Focus Economia, che ripeto dalla prossima torna in versione estiva, cioè fino alle 18. Un ringraziamento a Maria Sole Lisciandro e a Barbara Bianchi come sempre per l'assistenza in redazione e in studio. Un augurio di un buon fine settimana da parte di Sebastiano Barisoni. Ci sentiamo lunedì dalle 17 in poi. Ora è ora di avere un sito internet. È ora di vendere i tuoi prodotti online. È ora di farlo da solo. Perché è facile. Perché tu puoi. Con Supersite. Su Aruba.it.